Marsina Stretta, dalla settima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Alexis Brooks De Vita. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Marsina Stretta. Di solito il professor Gori aveva molta pazienza con la vecchia domestica, che lo serviva da circa 20 anni. Quel giorno però, per la prima volta in vita sua, gli toccava di indossare la Marsina, ed era fuori della grazia di Dio. Già il solo pensiero che una cosa di così poco conto potesse mettere in orgasmo un animo come il suo, alieno da tutte le frivolezze e oppreso da tante gravi cure intellettuali, bastava a irritarlo. L'irritazione poi gli cresceva, considerando che con questo suo animo potesse prestarsi a indossare quell'abito prescritto da una sciocca consuetudine per certe rappresentazioni di gala, con cui la vita si illude d'offrire a se stessa una festa o un divertimento. E poi, Dio mio, con quel corpaccio di ippopotamo, di bestiaccia antidiluviana! E sbuffava il professore, e fulminava con gli occhi la domestica che, piccola e boffice come una balla, si beava alla vista del grosso padrone in quell'insolito abito di parata, senza avvertire la sciagurata. Che mortificazione dovevano averne tutti intorno i vecchi e onesti mobili volgari e i poveri libri nella stanzetta quasi buia e in disordine. Quella Marsina, si intende, non l'aveva di suo il professor Gori. La prendeva a nolo. Il commesso d'un negozio vicino gliene aveva portate su in casa una bracciata per la scelta. E ora, con l'aria d'un compitissimo abiter elegantiarum, tenendo gli occhi semichiusi e sulle labbra un sorrisetto di compiacente superiorità, lo esaminava. Lo faceva voltare di qua e di là. Pardon, pardon! E quindi concludeva, scottendo il ciuffo, non va. Il professore sbuffava ancora una volta e si asciugava il sudore. Ne aveva provate 8, 9, non sapeva più quante, una più stretta dall'altra. E quel colletto in cui si sentiva impiccato, e quello sbarrato che gli strabuzzava, già tutto squalcito dal panciotto, e quella cravattina bianca inamidata e pendente a cui ancora doveva fare il nodo e non sapeva come. Alla fine il commesso si compiacque di dire: ecco, questa sì, non potremo trovare il meglio, credo pure, signore. Il professor Gori tornò prima a fulminare con uno sguardo la serva per impedire che ripetesse: dipinta, dipinta. Poi si guardò la Marsina, in considerazione della quale, senza dubbio, quel commesso gli dava del signore. Poi si rivolse al commesso. Non ne ha più altre con sé? Ne ho portate su 12, signore. Questa sarebbe la 12ª. La 12ª a servirla. E allora, va benone, era più stretta delle altre. Quel giovanotto, un po' risentito, concesse: strettina è, ma può andare. Se volesse avere la bontà di guardarsi allo specchio. Grazie tante, squittì il professore, basta lo spettacolo che sto offrendo a lei e alla mia signora serva. Quegli, allora, pieno di dignità, inchinò appena il capo e via, con le altre 11 Marsine. Ma è credibile, proruppe con un gemito rabbioso il professore, provandosi ad ansalda braccia. Si recò a guardare un profumato biglietto di invito su cassettone e sbuffò di nuovo. Il convegno era per le 8, in casa della sposa in via Milano, 20 minuti di cammino, ed erano già le 7:15. Rientrò nella stanzetta la vecchia serva che aveva accompagnato fino alla porta il commesso. Zitta! le impose subito il professore. Provate, se vi riesce, a finire di strozzarmi con questa cravatta. Piano, piano, il colletto, gli raccomandò la vecchia serva. E dopo essersi forbite ben bene con un fazzoletto le mani tremicchianti, s'accinse all'impresa. Regnò per 5 minuti il silenzio. Il professore e tutta la stanza intorno parvero sospesi, come in attesa del giudizio universale. Fatto? Sospirò quella. Il professor Gori scattò in piedi, urlando: lasciate! Mi proverò io, non ne posso più. Ma appena si presentò allo specchio, diede in tali escandescenze che quella poverina si spaventò. Si fece, prima di tutto, un goffo inchino. Ma, nell'inchinarsi, vedendo le due falde aprirsi e subito richiudersi, si rivoltò come un gatto che si sente qualcosa legata alla coda. E nel rivoltarsi, trac! La marsina gli si spaccò sotto un'ascella. Diventò furibondo. Scuccita, scuccita soltanto, lo rassicurò subito accorrendo la vecchia serva. Se la cavi, gli ricuccio. Ma se non ho più tempo, urlò esasperato il professore, andrò così, per castigo, così. Vuol dire che non porgerò la mano a nessuno, lasciatemi andare. S'annodò furiosamente la cravatta, nascose sotto il pastrano la vergogna di quell'abito e via. Alla fin fine, però, doveva essere contento che Diamine si celebrava quella mattina il matrimonio d'una sua antica allieva, a lui carissima, Cesara Reis, la quale, per suo mezzo, con quelle nozze, otteneva il premio di tanti sacrifici durati negli interminabili anni di scuola. Il professor Gori, via facendo, si mise a pensare alla strana combinazione per cui quel matrimonio s'effettuava. Sì, ma come si chiamava intanto lo sposo quel ricco signore vedovo, che un giorno gli si era presentato all'istituto di magistero per aver indicata da lui una istitutrice per le sue bambine. Grimi? Griti? No, Mitria, eccosi, Mitri, Mitri. Così era nato quel matrimonio. La Reis, povera figliuola, rimasta orfana a 15 anni, aveva eroicamente provveduto al mantenimento suo e della vecchia madre, lavorando un po' da sarta, un po' dando lezioni particolari, ed era riuscita a conseguire il diploma di professoressa. Egli, ammirato di tanta costanza, di tanta forza d'animo, pregando, brigando, aveva potuto procacciarle un posto a Roma, nelle scuole complementari, richiesto da quel signor Gritti. Gritti, Gritti, ecco, si chiama Gritti, che Mitri. Gli aveva indicato la Reis. Dopo alcuni giorni, se l'era veduto tornare davanti afflitto, imbarazzato, Cesara Reis non aveva voluto accettare il posto di istitutrice, in considerazione della sua età, del suo stato, della vecchia mamma, che non poteva lasciar sola, e soprattutto del facile malignare della gente. E chissà con qual voce, con qual espressione gli aveva dette queste cose la birichina. Bella figliuola la Reis, e di quella bellezza che a lui piaceva maggiormente, d'una bellezza a cui i diuturni dolori. Non per nulla il Gori era professore d'italiano. Diceva proprio così: i diuturni dolori. D'una bellezza a cui i diuturni dolori avevano dato la grazia d'una suavissima mestizia, una cara e dolce nobiltà. Certo, quel signor Grimi. Ho gran paura che si chiami proprio Grimi, ora che ci penso. Certo, quel signor Grimi, fin dal primo vederla, se n'era perdutamente innamorato. Cose che capitano, pare. E 3 o 4 volte, quantunque senza speranza, era tornato a insistere invano. Alla fine aveva pregato lui, il professor Gori. Lo aveva anzi scongiurato di interporsi. Perché la signorina Reis, così bella, così modesta, così virtuosa, se non l'istitutrice, diventasse la seconda madre delle sue bambine? E perché no? S'era interposto, felicissimo, il professor Gori, e la Reis aveva accettato. E ora il matrimonio si celebrava a dispetto dei parenti del signor Grimi, o Gritti, o Mitri, che vi si erano opposti accanitamente e che il diavolo se li porti via tutti quanti, concluse, sbuffando ancora una volta il grosso professore. Conveniva intanto recare alla sposa un mazzolino di fiori. Ella lo aveva tanto pregato perché le facesse da testimonio, ma il professore le aveva fatto notare che, in qualità di testimonio, avrebbe dovuto poi fargli un regalo degno della cospicua condizione dello sposo. E non poteva. In coscienza, non poteva. Bastava il sacrificio della Marsina. Ma un mazzolino intanto sì, ecco. Il professor Gori entrò con molta titubanza e impacciatissimo in un negozio di fiori, dove gli misero insieme un gran fascio di verdura con pochissimi fiori e molta spesa. Pervenuto in via Milano, vide in fondo davanti al portone in cui abitava la Reis una frotta di curiosi. Suppose che fosse tardi, che già nell'atrio ci fossero le carrozze per il corteo nuziale e che tutta questa gente stesse lì per assistere alla sfilata. Avanzò il passo. Ma perché tutti quei curiosi lo guardavano a quel modo? La Marsina era nascosta dal soprabito. Forse le falde? Si guardò dietro. No, non si vedevano. E dunque? Che era accaduto? Perché il portone era socchiuso. Il portinaio, con aria compunta, gli domandò: «Va su per il matrimonio? Il signore? Sì, signore, invitato». «Ma, sa, il matrimonio non si fa più». «Come?» «La povera signora, la madre, morta!» esclamò il Gori, stupefatto, guardando il portone. «Questa notte, improvvisamente». Il professore restò lì, come un ceppo. «Possibile? La madre? La signora Reis?» E volse in giro uno sguardo ai radunati, come per leggere nei loro occhi la conferma dell'incredibile notizia. Il mazzo di fiori gli cade di mano. Si chinò per raccattarlo, ma sentì la scucitura della Marsina allargarsi sotto l'ascella e rimase a metà. «Oh, Dio, la Marsina, già, la Marsina per le nozze, castigata così a comparire ora davanti alla morte!» Che fare? Andar su, parato a quel modo, tornare indietro? Raccattò il mazzo, poi, imbalordito, lo porse al portinaio. «Mi facci piacere, me lo tenga lei», ed entrò. Si provò a salire a balzi la scala, vi riuscì per la prima branca soltanto. All'ultimo piano, maledetto pancione, non tirava più fiato. Introdotto nel salottino, sorprese in coloro che vi stavano radunati un certo imbarazzo, una confusione subito represa, come se qualcuno, al suo entrare, fosse scappato via, o come se d'un tratto si fosse troncata un'intima e animatissima conversazione. Già imbacciato per conto suo, il professor Gori si fermò poco oltre l'entrata. Si guardò attorno, perplesso. Si sentì sperduto, quasi in mezzo a un campo nemico. Erano tutti signorini quelli, parenti e amici dello sposo. Quella vecchia lì era forse la madre, quelle altre due che parevano zitellone, forse sorelle o cugine. Si inchinò goffamente. «Oh Dio, da capo la Marsina!» E curvo, come tirato da dentro, volse un altro sguardo attorno, quasi per accertarsi se mai qualcuno avesse avvertito il crepito di quella maledettissima scucitura sotto l'ascella. Nessuno rispose al suo saluto, quasi che il lutto, la gravità del momento non consentissero neppure un lieve cenno del capo. Alcuni, forse intimi della famiglia, stavano costernati attorno a un signore, nel quale al Gori, guardando bene, parve di riconoscere lo sposo, trasse un respiro di sollievo e gli s'espressò premuroso. Signor Grimi, Migri, prego. Ah, già, Migri, ci penso da un'ora, mi credo, dicevo Grimi, Mitri, Griti, e non mi è venuto in mente Migri. Scusi, io sono il professor Fabio Gori, si ricorderà, quantunque ora mi veda in piacere. Ma, fece quegli, osservandolo con fredda alterrigia, poi, come sovvenendosi. Ah, Gori, già. Lei sarebbe quello, sì, dico, l'autore, se vogliamo, indiretto del matrimonio, mio fratello m'ha raccontato. Come? Scusi, lei sarebbe il fratello, Carlo Migri, a servirla. Favorirmi, grazie, somigliantissimo per Bacco, mi scusi, signor Migri. Già, ma questo fulminea, ciel sereno, già. Io purtroppo, cioè purtroppo, no, non ho da recarmelo a colpa, diciamo, ma sì, indirettamente per combinazione, diciamo, ho contribuito. Il Migri lo interruppe con un gesto della mano e si alzò. Permetta che la presenti a mia madre. Onoratissimo, si figuri. Fu condotto davanti alla vecchia signora, che ingombrava con la sua enorme pinguedine mezzo canapè, vestita di nero, con una specie di cuffia pur nera sui capelli lanosi che le contornavano la faccia piatta, giallastra, quasi di cartapecora. Mamma, il professor Gori, sai? Quello che aveva combinato il matrimonio di Andrea. La vecchia signora sollevò le palpebre gravi sonnolente, mostrando un più aperto e l'altro meno, gli occhi torbidi, ovati, quasi senza sguardo. In verità, corresse il professore, inchinandosi questa volta con trepidante riguardo per la marsina scucita, in verità, ecco, combinato no. Non sarebbe la parola, io semplicemente... Voleva dare un'istitutrice alle mie nipotine, compì la frase la vecchia signora, con voce cavernosa. Benissimo. Così, difatti, sarebbe stato giusto. Ecco già, fece il professor Gori, conoscendo i meriti e la modestia della signorina Reis. Ah, ottima figliuola, nessuno la nega, riconobbe subito, riabbassando le palpebre la vecchia signora, e noi, creda, siamo oggi dolentissimi. Che sciagura, già così di colpo, esclamò il Gori. Come se non ci fosse veramente la volontà di Dio, concluse la vecchia signora. Il Gori la guardò. Fatalità crudele. Poi, guardando in giro per il salotto, domandò: «E il signor Andrea?» Gli rispose il fratello, simulando indifferenza. «Ma, non so, era qui poco fa. Sarà andato forse a prepararsi?» «Ah!» esclamò allora il Gori, rallegrandosi improvvisamente. «Le nozze, dunque, si faranno lo stesso?» «No! Che dice mai?» scattò la vecchia signora, stupita, offesa. «Oh, signore, iddio! Con la morte in casa? Oh! Oh!» echeggiarono, miagolando le due zitellone con orrore. «Prepararsi per partire», spiegò il Migri. «Doveva partire oggi stesso con la sposa per Torino. Abbiamo le nostre cartiere lassù, a Valsangone, dove c'è tanto bisogno di lui». «E partirà così?» domandò il Gori. «Per forza, se non oggi, domani. L'abbiamo persuaso noi, spinto anzi, poverino. Qui, capirà, non è più prudente né conveniente che rimanga. Per la ragazza sola, ormai, aggiunse la madre con la voce cavernosa, le male lingue. E già, riprese il fratello, e poi gli affari. Era un matrimonio precipitato, proruppe una delle zitellone. Diciamo improvvisato, cercò d'attenuare il Migri. Ora, questa grave sciagura sopravviene fatalmente come sì, per dar tempo, ecco, un differimento si impone per il lutto e così si potrà pensare, riflettere da un parte e dall'altra. Il professor Gori rimase muto per un pezzo. l'impaccio irritante che gli cagionava quel discorso, così tutto sospeso in prudenti reticenze, era pur quello stesso che gli cagionava la sua marsina stretta e scucita sotto l'ascella. Scucito allo stesso modo gli sembrò quel discorso, e da accogliere con lo stesso riguardo per la scucitura segreta col quale era proferito. A sforzarlo un po', a non tenerlo così composto e sospeso, con tutti i debiti riguardi, c'era pericolo che, come la manica della marsina si sarebbe staccata, così anche si sarebbe aperta e denudata l'ipocrisia di tutti quei signori. Sentì per un momento il bisogno d'astrarsi da quell'oppressione e anche dal fastidio che, nell'intontimento in cui era caduto, gli dava il merlettino bianco che orlava il collo della casacca nera della vecchia signora. Ogni qualvolta vedeva un merlettino bianco come quello, gli si riaffacciava alla memoria, chissà perché, l'immagine d'un tal Pietro Cardella, merciaio del suo paesello lontano, afflitto da un cisti enorme alla nuca. Gli venne di sbuffare, si trattenne a tempo e sospirò come uno stupido. E già, povera figliuola. Gli rispose un cuore di commiserazioni per la sposa. Il professor Gori se ne sentì all'improvviso come sferzare e domandò, irritatissimo, dove potrei vederla? Il Migri indicò un uscio nel salottino. Di là, si serva. Il professor Gori vi si diresse furiosamente. Sul lettino, bianco, rigidamente stirato il cadavere della madre, con un'enorme cuffia in capo dalle tese inamidate. Non vide altro, in prima, il professor Gori entrando. In preda a quell'irritazione crescente di cui, nello stordimento e nell'impaccio, non riusciva a rendersi esatto conto, con la testa che già gli fumava, anziché commuoversene, se ne sentì irritare, come per una cosa veramente assurda, stupida e crudele superchieria della sorte che, no, per Dio, non si doveva a nessun costo lasciar passare. Tutta quella rigidità della morte gli parve di parata, come se quella povera vecchina si fosse stessa da sé, là, su quel letto, con quell'enorme cuffia inamidata per prendersi lei, a tradimento, la festa preparata per la figliuola. E quasi, quasi, al professor Gori, venne la tentazione di gridarle, «Su, via, si alzi! Mia cara vecchia signora, non è il momento di fare scherzi di codesto genere!» Cesare Rei stava per terra caduta sui ginocchi e tutta aggruppata ora presso il lettino su cui giaceva il cadavere della madre non piangeva più, come sospesa in uno sbalordimento grave e vano. Tra i capelli neri, scarmigliati, aveva alcune ciocche ancora attorte dalla sera avanti in pezzetti di carta per farsi ricci. Ebbene. Anziché pietà, provò anche per lei quasi dispetto il professor Gori. Gli sorse prepotente il bisogno di tirarla su da terra, di scuoterla da quello sbalordimento. Non si doveva dar la vinta al destino, che favoriva così iniquamente l'ipocrisia di tutti quei signori radunati nell'altra stanza. No, no, era tutto preparato, tutto pronto. Quei signori là erano venuti in marsina come lui per le nozze. Ebbene, bastava un atto di volontà in qualcuno, costringere quella povera fanciulla, caduta lì per terra, ad alzarsi, condurla, trascinarla, anche così mezzo sbalordita, a concludere quelle nozze per salvarla dalla rovina. Ma stentava sorge in lui quell'atto di volontà, che con tanta evidenza sarebbe stato contrario alla volontà di tutti quei parenti, come Cesare, però. Senza muovere il capo, senza batter ciglio, levò appena una mano ad accennare la sua mamma lì distesa, dicendogli «Vede, professore!» Il professore ebbe uno scatto e «Sì, cara, sì!» le rispose con una concitazione quasi astiosa che stordì la sua antica allieva. Ma tu, alzati! Non farmi calare, perché non posso calarmi. Alzati da te, subito, via, su, su, fammi il piacere. Senza volerlo, forzata da quella concitazione, la giovane si scosse dal suo abbattimento e guardò, quasi sgomenta, il professore. Perché? Gli chiese. Perché, figliuola mia? Ma alzati prima, ti dico che non mi posso calare, santo Dio, le rispose Igori. Cesara si alzò. Rivedendo però sul lettino cadavere della madre, si coprì il volto con le mani e scoppiò in violenti singhiozzi. Non s'aspettava di sentirsi afferrare per la braccia e scrollare, gridare dal professore, più che mai concitato, «No! No! No! Non piangere ora! Abbi pazienza, figliuola, da ascolta a me!» Tornò a guardarlo, quasi atterrita questa volta, col pianto arrestato negli occhi, e disse, «Ma come vuole che non pianga?» «Non devi piangere, perché non è ora di piangere. Questa per te», tagliò corto il professore. «Tu sei rimasta sola, figliuola mia, e devi aiutarti da te. Lo capisci che devi aiutarti da te? Ora, sì, ora. Prendere tutto il tuo coraggio a due mani, stringere i denti e far quello che ti dico io». «Che cosa, professore? Niente. Toglierti, prima di tutto, codesti pezzetti di carta dai capelli. Oh, Dio, ci mette la fanciulla, sovvenendosene e portandosi subito le mani tremanti ai capelli. Brava, così, incalzò il professore. Poi, andarti là a indossare il tuo abitino di scuola, metterti il cappellino e venire con me. Dove? Che dice? Al municipio, figliuola mia. Professore, che dice? Dico al municipio, allo stato civile e poi in chiesa. Perché codesto matrimonio s'ha da fare ora stesso, o tu sei rovinata. Vedi come mi sono conciato per te. In Marsina, e uno dei testimoni sarò io come volevi tu. Lascia di qua la tua povera mamma. Non pensare più a lei per un momento. Non ti pare un sacrilegio. Lei stessa, la tua mamma, lo vuole. T'ascolto a me. Va a vestirti. Io dispongo tutto di là per la cerimonia, ora stesso. No, no. Come potrei, gridò Cesara, ripiegandosi sul letto della madre e affondando il capo tra le braccia disperatamente. Impossibile, professore, per me è finita, lo so. Egli se ne andrà, non tornerà più, mi abbandonerà, ma io non posso, non posso. Il Gori non cedette. Si chinò per sollevarla, per strapparla da quel letto, ma come stese le braccia, pestò rabbiosamente un piede, gridando, «Non me ne importa niente. Farò magari da testimonio con una manica sola, ma questo matrimonio oggi si farà. Lo comprendi tu, guardami negli occhi. Lo comprendi, è vero? Che se ti lasci scappare in questo momento, tu sei perduta. Come resti? Senza più il posto, senza più nessuno. Vuoi dar colpa a tua madre della tua rovina? Non sospiro tanto, povera donna, questo tuo matrimonio? E vuoi ora che, per causa sua, vada a monte? Che fai tu di male, coraggio, Cesara? Ci sono qua io. Lascia a me la responsabilità di quello che fai. Va, va a vestirti, figliuola mia, senza perdere tempo». E così dicendo, condusse la fanciulla fino all'uscio della sua cameretta, sorreggendola per la spalle. Poi riattraversò la camera mortuaria, ne serrò l'uscio e rientrò come un guerriero nel salottino. «Non è ancora venuto lo sposo? I parenti?» Gli invitati si voltarono a guardarlo, sorpresi dal tono imperioso della voce. Il Migri domandò con simulata premura: «Si sente male la signorina? Si sente benone?» gli rispose il professore guardandolo con tanto d'occhi. «Anzi, ho il piacere di annunziare a lor signori che ho avuto la fortuna di persuaderla a vincersi per un momento e soffocare in sé il cordoglio. Siamo qua tutti? Tutto è pronto? Basterà. Mi lascino dire, basterà, che uno di loro, lei, per esempio, sarà tanto gentile», aggiunse, rivolgendosi a uno degli invitati, Mi farà il piacere di correre con una vettura al municipio e di prevenire l'ufficiale dello stato civile che, un coro di vivaci proteste, interruppe a questo punto il professore. Scandalo, stupore, orrore, indignazione. Mi lascino spiegare, gridò il professor Gori, che dominava tutti con la persona, perché questo matrimonio non si farebbe. Per il lutto della sposa, è vero? Ora, se la sposa stessa, ma io non permetterò mai, gridò più forte di lui, troncandogli la parola, la vecchia signora, non permetterò mai che mio figlio faccia il suo dovere a una buona azione, domandò pronto il Gori, compiendo lui la frase questa volta. Ma lei non stia a mischiarsi, venne a dirgli, pallido e vibrante d'ira, il Migri in difesa della madre. Perdoni, mi mischio, rimbeccò subito il Gori, perché so che lei è un gentiluomo, caro signor Grimi. Migri, prego, Migri, Migri, e comprenderà che non è lecito né onesto sottrarsi alle estreme esigenze d'una situazione come questa. Bisogna essere più forti della sciagura che colpisce quella povera figliuola e salvarla. Può restar sola così, senza aiuto e senza alcuna posizione ormai. Lo dica lei, no. Questo matrimonio si farà nonostante la sciagura e nonostante abbiano pazienza. Si interruppe infuriato e sbuffante, si cacciò una mano sotto la manica del soprabito, afferrò la manica della marsina e con uno strappo violento se la tirò fuori e la lanciò per aria. Risero tutti, senza volerlo, a quel razzo inatteso, di nuovo genere, mentre il professore, con un gran sospiro di liberazione, seguitava: «E nonostante questa manica che mi ha tormentato finora!» «Lei scherza!» riprese, ricomponendosi in Migri. «No, signore!» mi s'era scucita. «Scherza! Codeste sono violenze, quelle che consiglia il caso. Oh, l'interesse! Le dico che non è possibile in queste condizioni, sopravvenne per fortuna lo sposo. No, no, Andrea, no! Gli gridarono subito parecchie voci di qua e di là, ma il Gori le sopraffece, avanzandosi verso i Migri. Decida lei, mi lascino dire, si tratta di questo. Ho indotto di là la signorina Reis a farsi forza, a vincersi, considerando la gravità della situazione in cui, caro signore, lei l'ha messa e la slascerebbe. Piacendo a lei, signor Migri, si potrebbe, senza alcuno apparato, zitti zitti in una vettura chiusa, correre al municipio, celebrare subito il matrimonio. Lei non vorrà, spero, negarsi, ma dica, dica lei. Andrea Migri, così soprappreso, guardò prima i Gori, poi gli altri. Infine rispose esitante, ma per me, se Cesare vuole, vuole, vuole, gridò il Gori, dominando col suo vocione le disapprovazioni degli altri. Ecco finalmente una parola che parte dal cuore. Lui dunque venga, corra al municipio, gentilissimo signore. Prese per un braccio quell'invitato a cui s'era rivolto la prima volta, lo accompagnò fino alla porta. Nella saletta d'ingresso vide una gran quantità di magnifiche ceste di fiori arrivati in dono per il matrimonio e si fece all'uscio del salotto per chiamare lo sposo e liberarlo dai parenti inviperiti che già la attorniavano. «Signor Migri, signor Migri, una preghiera, guardi!» Quegli accorse. «Interpretiamo il sentimento di quella poverina, tutti questi fiori alla morta. Mi aiuti?» Prese due ceste e rientrò così nel salotto, reggendole trionfalmente, diretto alla camera mortuaria. Lo sposo lo seguiva, compunto, con altre due ceste. Fu una subitanea conversione della festa. Più d'uno accorse alla saletta a prendere altre ceste e a recarle in processione. «I fiori alla morta! Benissimo, fiori alla morta!» Poco dopo, Cesare entrò nel salotto, pallidissima, col modesto abito nero della scuola, i capelli appena ravviati, tremante dello sforzo che faceva su se stessa per contenersi. Subito lo sposo le corse incontro, la raccolse tra le braccia pietosamente. Tutti tacevano Il professor Gori, con gli occhi lucenti di lagrime, pregò tre di quei signori che seguissero con lui gli sposi per fare da testimoni e s'avviarono in silenzio. La madre, il fratello, le zitellone, gli invitati rimasti nel salotto ripresero subito a dar sfogo alla loro indignazione frenata per un momento all'apparire di Cesara. Fortuna che la povera vecchia mamma, di là in mezzo ai fiori, non poteva più ascoltare questa brava gente che si diceva proprio indignata per tanta irreverenza verso la morte di lei. Ma il professor Gori, durante il tragitto, pensando a ciò che in quel momento certo si diceva di lui in quel salotto, rimase come intronato e giunse al municipio che pareva ubriaco, tanto che, non pensando più alla manica della marsina che s'era strappata, si tolse come gli altri il soprabito. «Professore! Ah già, perbacco!» si esclamò e se lo recacciò di furia. Finanche Cesara ne sorrise, ma il Gori, che s'era in certo qual modo confortato, dicendo a se stesso che, in fin dei conti, non sarebbe più tornato lì, tra quella gente, non poté riderne. Doveva tornarci per forza ora, per quella manica da restituire insieme con la marsina al negoziante da cui l'aveva presa il nolo. La firma? Che firma? Ah, già, sì, doveva apporre la firma come testimonio. Dove? Sbrigati in fretta, l'altra funzione in chiesa, gli sposi e i quattro testimoni rientrarono in casa. Furono accolti con lo stesso silenzio glaciale. Il Gori, cercando di farsi quanto più piccolo gli fosse possibile, girò lo sguardo per il salotto e, rivolgendosi a uno degli invitati, col dito sulla bocca, pregò: «Piano, piano, mi saprebbe dire di grazia dove sia andata a finire quella tal manica della mia marsina che buttai all'aria poc'anzi?» E, ravolgendosela, poco dopo, entrò un giornale e, andandosene via quatto quatto, si mise a considerare che, dopo tutto, egli doveva soltanto alla manica di quella marsina stretta la bella vittoria riportata quel giorno sul destino. Perché, se quella marsina, con la manica scucita sotto l'ascella, non gli avesse suscitato tanta irritazione, egli, nella consueta ampiezza dei suoi comodi e logori abiti giornalieri, di fronte alla sciagura di quella morte improvvisa, si sarebbe abbandonato senz'altro, come un imbecille, alla commozione, a un inerte compianto della sorte infelice di quella povera fanciulla. Fuori della grazia di Dio per quella marsina stretta, aveva invece trovato, nell'irritazione, l'animo e la forza di ribellarvisi e di trionfarne. Fine della novella. Marsina stretta. Registrazione di Alexis Brooks Tevita. alexisbrooksdevita.com